Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Morpheus, the line was traced, I don't know how. I know, they cut the hard line. There's no time, you're gonna have to get to another exit. Are there any agents? Yes. God damn it. You have to focus, Trinity. There's a phone at Wellsend Lake. You can make it. All right. Go. Giulio Caperdoni di nuovo con voi dopo lo stop per la pubblicità. Siamo all'inizio della seconda parte di Eclettica, presente tutti i giorni della settimana sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. La prima parte si era chiusa con i texani Best Friends, questa seconda parte invece si è aperta con la band che proviene da Brooklyn di nome The XYZ Affair. Avete sentito il loro pop molto piacevole all'ascolto. Si ritorna in Texas, si ritorna a Austin per la precisione, grazie a Profumo di Eclettica, ovvero sia lo spazio che permette di andare a ripescare dalle vecchie playlist di Eclettica i brani che l'avevano caratterizzate nelle stagioni passate, come per esempio nel 2003 l'album degli Explosions in the Sky dal titolo The Earth is Not a Cold Dead Place. Ci ascoltiamo il brano che lo apre, ovvero sia il primo respiro dopo il coma, First Breath After Coma. Il balletto inizia durante un carnevale. Ci sono rinfreschi e giostre. Molta gente in costumi gai e multicolori balla e ride tra suoni d'ottoni mentre i tromboni solfeggiano in minore a suggerire che presto i rinfreschi saranno esauriti e tutti saranno morti. Vaga per la fiera una bellissima ragazza, Natasha, che è triste perché hanno mandato suo padre a combattere a Khartoum, dove non c'è nessuna guerra. La segue Leonida, uno studente troppo timido per parlare a Natasha e che ogni sera lascia alla sua porta una insalata mista. Natasha è commossa dal regalo e desidera incontrare il donatore, soprattutto perché lei odia olio e aceto e preferirebbe olio e limone. I due si incontrano per caso quando Leonida, cercando di scrivere un biglietto d'amore a Natasha, cade giù dalle montagne russe. Lei lo aiuta ad alzarsi e i due ballano, dopodiché Leonida cerca di impressionarla roteando gli occhi finché non lo portano al pronto soccorso. Leonida si scusa diffusamente e suggerisce di fare una passeggiata fino al Teatro delle Marionette. La qualcosa conferma a Natasha di avere a che fare con un idiota. Lo spettacolo di marionette in ogni modo è incantevole e un grande pupazzo che si chiama Dmitri si innamora di Natasha. Lei capisce che anche se fatto di segatura, egli ha un'anima e quando lui suggerisce di andare al motel, presentandosi come il signor Smith e signora, lei ne è entusiasta. I due ballano, malgrado lei abbia appena finito di ballare e stia sudando come un bue. Natasha confessa il suo amore a Dmitri e giura che staranno sempre insieme, anche se il burattinaio dovrà dormire su una brandina in salotto. Leonida, furioso per essere stato soppiantato da una marionetta, uccide Dmitri, che non muore, ma appare sul tetto della banca mercantile bevendo con altezzosità del Vicks Vaporub. L'azione diventa un po' confusa e tutti si divertono molto quando Natasha si fracassa il cranio. Questo era l'incipit di Guida al balletto, da citarsi addosso, di Woody Allen. When you lied,

Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 41, volume numero 3. Indice, Omar Rodriguez Lopez. Valérie Leliu, 120 Days. Yoch, Xavier Rudd. Best Friends. The XYZ Affair. Explosions in the Sky. The Twilight Said. The View. Miss Alex White and the Red Orchestra. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, su Rock FM.